Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'inizio dell'ultima eclettica della settimana. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, come tutti i giorni fra le 19 e le 20, che rinnova, non solo per oggi, ma anche per i giorni a venire, per il weekend, quando gli iscritti alla lista nera riceveranno la playlist della trasmissione, rinnova l'invito a scrivere a giulio@radiorockfm.com, perché le vostre parole possono, devono, diventare parte di questa trasmissione. Il giorno di San Valentino del 1989, l'ultimo della sua vita, la leggendaria cantante pop Veena Apsara si svegliò tra i singhiozzi da un sogno di sacrifici umani in cui era la vittima designata. Uomini a torso nudo, somiglianti all'attore Christopher Plummer, l'avevano afferrata per i polsi e le caviglie. Il suo corpo era stato disteso, nudo e fremente, sopra una pietra levigata che recava l'immagine scolpita dell'uccello serpente Quetzalcoatl. La bocca aperta del serpente piumato cingeva una buia cavità scavata nella pietra. E anche se lei stessa aveva la bocca spalancata dalle urla, l'unico rumore che riusciva a sentire era il crepitio dei flash dei fotografi. Ma prima che potessero tagliarle la gola, prima che il suo sangue potesse sprizzare in quella terribile coppa, si svegliò, a mezzogiorno, nella città messicana di Guadalajara, in un letto che non era il suo, e con uno sconosciuto, mezzo morto, al fianco, un mestizzo nudo sui 20 anni, che fu identificato negli interminabili reportage dedicati dalla stampa alla catastrofe come Raul Paramo, il playboy erede di un notissimo palazzinaro del posto, al quale, tra le altre cose, apparteneva la società proprietaria dell'albergo. Questo era l'incipit de La terra sotto i suoi piedi, di Salman Rushdie. Switches are insane. My head is In every marriage, you get one chance to say, I need you to do this with me. That is the stupidest thing I've ever heard. High School, questo è il titolo del pezzo da parte di My Robot Friend che si è appena chiuso, mentre in precedenza ad aprire il volume numero 5 di Eclectic erano stati The Warlocks con So Paranoid. The Warlocks californiani, come californiani sono anche The Mei Shai, la formazione che sta per arrivare con il loro quarto album, che è quello che me li ha fatti scoprire, album del quale non penso di essere in grado di riuscire a leggere il titolo. Vi faccio lo spelling: c'è una H, ci sono tre L, c'è una Y e c'è un'altra H. Loro si chiamano The Mei Shai, vengono da Los Angeles e questa è Lamb and the Lion. We'll be right back. Io sono nato nella città di Bombay, tanto tempo fa. No, non va bene. Impossibile sfuggire alla data. Sono nato nella casa di cura del dottor Narlikar il 15 agosto 1947. E l'ora? Anche l'ora è importante. Beh, diciamo di notte. No, bisogna essere più precisi. Allo scoccare della mezzanotte, in effetti. Quando io arrivai, le lancette dell'orologio congiunsero i palmi in un saluto rispettoso. Oh, diciamolo chiaro. Nell'istante preciso in cui l'India pervenne l'indipendenza, io fui scaraventato nel mondo. Ci fu chi boccheggiò. E fuori dalla finestra, folle e fuochi d'artificio. Pochi secondi dopo, mio padre si ruppe un alluce. Ma questo incidente era una bazzecola, se paragonato a quello che era accaduto a me in quel tenebroso momento. Grazie infatti alle tirannie occulte di quelle lancette, dolcemente ossequianti, io ero stato misteriosamente ammanettato alla storia e il mio destino indissolubilmente legato a quello del mio paese. Nei 3 decenni successivi non avrei avuto scampo. Questo era l'incipit de I figli della mezzanotte di Salman Rushdie. To me, all of you. We are staying. We have a great life here in Alaska, and we're never going back to America again. always wanted to tell you, but I never had the chance to say. I got a feeling in my heart from the beginning to my dying day. I was 15, 16, maybe. Park, I was waving my arms. You were red with sweat, and you sang the song that I was screaming. I wanted you to. Another time was in South Carolina. Always been the third uncle. Whose wind came blowing in? Can you tell me who were you singing for? Oh my God, can you tell me who you were? Un brano alla chiusura della prima parte del volume numero 5 di Eclettica, un brano che fra poco vi presenterò, ma prima vi devo ricordare che vi siete ascoltati Say Hi con Northwestern Girls, seguiti da Cat Power, non con la solita cover di New York, solita per quanto riguarda la sua presenza nelle playlist di Eclettica, ma con uno dei pochissimi brani originali che sono contenuti all'interno del nuovo di Cat Power intitolato Jukebox. Beh, a tutti gli effetti l'unico vero originale, perché di altri brani scritti da Cat Power sono contenute nuove versioni, al di là delle cover di canzoni di Frank Sinatra, Hank Williams, James Brown, Bob Dylan, Billie Holiday, Joni Mitchell e così via. E visto che abbiamo citato Bob Dylan, è proprio Bob Dylan che mi è venuto in mente nei vari passaggi di questa Song to Bobby. Vi avevo parlato di una nuova canzone, di un nuovo gruppo, un gruppo chiamato Port O'Brien, nato come duo folk nel 2005 ma poi evoluto a forma di quartetto con l'aggiunta di una sezione ritmica. Hanno autopubblicata una serie di canzoni dal 2005 ad oggi che adesso sono state riassunte da parte dell'American Dust Records in quello che possiamo considerare il loro album d'esordio. Si intitola The Wind and the Swell. Nel frattempo loro stanno girando in tour con nomi come Bright Eyes, Cave Singers, Modest Mouse, Rogue Wave, tutti nomi da eclettica, per così dire. E si annuncia alle porte anche un primo e vero disco ufficiale, quindi non una raccolta di canzoni che diventano poi un disco a posteriori. Port O'Brien, che ci ascoltiamo con I Woke Up Today.